30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La NATO ha affondato 8 navi da guerra appartenenti alle forze del leader libico Muammar Gheddafi durante una serie di raid notturni dell'alleanza sui porti di Tripoli, Homs e Sirte. Tutti gli obiettivi della NATO sono di natura militare e direttamente legati ai sistematici attacchi del regime contro i civili, ha spiegato l'ammiraglio Russell Harding, vicecomandante della missione Unified Protector. Ancora buonasera, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Insomma, 2 mesi dopo l'inizio dell'operazione, la Libia scivola sullo sfondo dell'attenzione della politica internazionale. Giungono notizie, immagini, frammenti di una guerra che si protrae fino a quando appunto eventi più clamorosi come l'attacco diretto alla flotta di fatto di Gheddafi riporta l'attenzione su quanto accade in Libia. In Libia, dove tutta la settimana che si va a concludere è stata segnata anche dalle voci circa la presenza di esponenti importanti, la moglie, i figli, la figlia di Gheddafi in Tunisia, poi interamente smentiti. Insomma, un quadro tutt'altro che chiaro. Cerchiamo di fare il punto questa sera. Con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Insomma, la situazione, dicevamo, è tutt'altro che chiara. Quello che sembra chiaro è che la NATO, le operazioni militari americane e naturalmente internazionale, con la partecipazione dell'Italia e non solo, non intendano mollare la presa. Beh, dopo 2 mesi devono in qualche modo arrivare a un risultato. Teniamo presente che la missione è iniziata con gli francesi, gli inglesi e gli americani. Poi gli americani si sono un po' sfilati, lasciando che fossero solo i droni praticamente a partecipare a questa missione militare, che è guidata dalla NATO con una componente aerea e una navale, ma che non è ancora arrivata a capo poi della questione principale, cioè non è riuscita a buttare giù questo regime di Gheddafi, difficilmente ci riuscirà soltanto con i bombardamenti dall'alto. Il paese è virtualmente diviso in due: da una parte c'è Bengasi a centinaia, se non migliaia di chilometri, e dall'altra parte c'è la Tripolitania, in mezzo una grande area vasta deserta della Sirte, e insomma una Libia che appare quanto mai divisa e forse difficile da ricomporre anche una volta che Gheddafi sia stato eliminato dal potere. Un paese diviso in questa fase lungo una linea dove si combatte. Questi sono solo alcuni dei suoni inconfondibili dello sfondo degli attacchi e dei contrattacchi che appunto si sviluppano continuamente tra queste due grandi zone, l'est e l'ovest, Tripoli da una parte, Bengasi dall'altra parte. Bene, ecco, credo che uno degli elementi centrali di questa vicenda, e lo è anche in queste ore, è il controllo dei pozzi petroliferi, delle zone di estrazione, delle 5 raffinerie che sono il vero e proprio tesoro di qualsiasi governo, regime libico, passato o futuro. Alberto. Eh sì, l'insuccesso tutto sommato di questa rivolta si misura anche in questo, perché i ribelli dopo 2 mesi, il punto più occidentale dove sono arrivate è a Gheddabia, dopo ci sono i terminali petroliferi di Ras Lanuf, di Brega di Ras Lanuf, che i ribelli non hanno mai realmente controllato, se non per pochi giorni, dove ci sono ancora i gheddafiani. Questo significa che in realtà anche gli approvvigionamenti di petrolio per uso interno stanno diventando difficili, perché c'è una raffineria che funziona a Tobruk, un'altra che funziona in occidente da Zawiya vicino a Tripoli, e poi tutto il resto degli impianti sono bloccati. Ma la cosa interessante è proprio che gli insorti sono stati, come dire, fermati su questa linea dei terminali petroliferi e da lì non sono riusciti ad andare avanti. Questa è dunque la linea e la trincea, se vogliamo, e forse anche la chiave di volta, perché di cosa vive il regime oggi? Di cosa vive l'opposizione? Anche se forse per questa seconda parte si potrebbe ipotizzare semplicemente vive dell'appoggio occidentale, ma è davvero tale? Ma io direi che il regime vive sicuramente del denaro accumulato in tutti questi anni, un regime ricco che esportava petrolio, che aveva affari ovunque, e che quindi ancora, probabilmente questo è il motivo per cui Gheddafi è ancora in piedi, ha ancora la capacità finanziaria di pagare l'esercito, i mercenari, per poter reggere lo scontro con gli insorti. Dall'altra parte gli insorti sono scarsamente organizzati e non hanno risorse né finanziarie né militari importanti, al punto che anche i famosi paesi occidentali che promettevano di armarli e cose di questo genere in realtà non l'hanno fatto, nessuno si fida di farlo. Ecco. Ecco Alberto, tu hai parlato, hai detto Gheddafi ha ancora il tesoro di anni di esportazioni, record di imponenti masse di petrolio verso l'Occidente, verso l'Italia, ma come tutti i tesori prima o poi finisce. Secondo te è un problema, diciamo, immediato oppure è talmente grande quello che è stato accumulato che da questo punto di vista potrebbe tenere ancora molto a lungo? Secondo me se Gheddafi non viene in qualche modo minato all'interno della cerchia del potere da qualche complotto o familiare o di militari, può ancora resistere alcuni mesi al potere. Può ancora resistere alcuni mesi. La cerchia del potere, naturalmente, è sicuramente un elemento chiave di qualsiasi battaglia, di qualsiasi rivoluzione in corso. Anche su questo fronte molte voci si sono rincorse, tentativi addirittura di assassinare il leader. Ecco, tu che segui da anni questi paesi, questo paese così complesso, quanto ritieni sia forte la capacità, ancora la presa del colonnello Gheddafi su quel suo cerchio interno che di fatto rappresenta oggi la sua migliore assicurazione sulla vita? Ma la cosa più sconcertante all'inizio dei bombardamenti in Libia è che i francesi e i britannici abbiano fatto credere che il regime di Gheddafi potesse essere liquidato in poche battute, in pochi giorni di bombardamenti. Ma il problema è che Gheddafi è salito al potere nel 69, oltre 40 anni di potere. In 40 anni ha affrontato colpi di Stato, rivolte, guerriglia islamica, insomma un po' di tutto. È un leader molto sperimentato che tiene sotto controllo, comunque ha tenuto a lungo sotto controllo il paese, che ha componenti particolari come i clan e le tribù, e non è facile, come dire, smontare questo sistema di potere. E infatti dopo due mesi siamo ancora qui che aspettiamo che arrivi l'annuncio di un'ipotetica fuga di Gheddafi. Tra annunci che si susseguono, ipotesi, dunque il colonnello Gheddafi di sicuro è un uomo di conclamata e coltivata esperienza internazionale, non dimentichiamo quale fosse la sua rete di relazioni, non solo attraverso l'Italia naturalmente, ma l'Europa e il mondo intero, di come sia stato capace di essere in una fase nella lista dei paesi canaglia e poi di uscirne attraverso anche un'attenta politica di attenzione nei confronti degli Stati Uniti. E già gli Stati Uniti che, per quanto l'abbiamo detto tante volte in questi mesi, abbiano per un certo periodo assunto una posizione anche quasi volutamente meno di primo piano nel Mediterraneo, beh, quando riesplode la crisi poi riemerge l'importanza delle parole che arrivano dalla Casa Bianca. 30 minuti in cronaca. Six months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa. Square by square, town by town, country by country, the people have risen up to demand their basic human rights. Diritti umani, dunque, quello che chiede la gente del Nord Africa, e lo racconta il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel suo intervento di giovedì scorso, quindi due giorni fa, a due anni di fatto di distanza dall'altro discorso. Allora forse fu più, diciamo, importante, più sorprendente, che mi riferisco al discorso al mondo islamico tenuto dall'Università del Cairo, in cui di fatto gli Stati Uniti, attraverso il presidente degli Stati Uniti, tendevano la mano a un mondo con cui negli ultimi anni per lo più sono stati coltivati conflitti. Dunque, Barack Obama parla di questa grande stagione di trasformazione, dice la gente strada per strada, villaggio per villaggio, paese per paese, chiede cambiamenti, chiede rispetto dei diritti umani. E poi prosegue nel suo discorso ricordando come già due leader siano caduti, come uno sia, secondo lui, appunto sul passo quasi sul momento di farlo, altri invece probabilmente seguiranno. Alberto, in che modo questo discorso riguarda, riguarda la Libia, riguarda Gheddafi e il suo futuro? Ma dunque, ci sono degli aspetti del discorso di Obama che sono interessanti. Uno, metterei subito in luce, che è l'unica vera novità, e quando lui fa accenno al fatto che la questione arabo-israeliana debba essere regolamentata sulla risoluzione dell'ONU del 1967, quindi col ritorno di Israele ai confini della guerra dei sei giorni, cosa che naturalmente ha subito provocato una reazione contraria da parte di Netanyahu, che stava proprio recandosi in quelle ore alla Casa Bianca. E questo è stato l'aspetto forse più sorprendente, tant'è vero che nessuna amministrazione americana negli ultimi anni faceva accenno a questo ritorno ai confini del 67, perché ritenuto alquanto irrealistico. L'altra parte riguarda in generale tutta la regione del mondo arabo. Che cosa ha fatto Obama? Ma Obama in fondo ci è venuto a raccontare tutte cose che già sappiamo. Cioè, ci ha detto che sono stati buttati giù Mubarak e Ben Ali, che anche Gheddafi se ne dovrebbe andare, che Assad, se non fa le riforme, deve andarsene pure lui. Però spontaneamente sorge una domanda: gli Stati Uniti sono una superpotenza, che ci vengono a raccontare i fatti che già conosciamo, va bene, ma loro che cosa fanno? E sottolineerei che proprio tutti questi eventi della regione sono avvenuti con l'assenza praticamente completa di due protagonisti degli ultimi 10 anni della scena medio orientale. Da una parte proprio gli Stati Uniti, che non hanno influito assolutamente in queste vicende, e dall'altra di Al-Qaeda e di Osama Bin Laden, ancora prima di essere ucciso, perché erano emarginati da tutte le piazze arabe. Quindi in qualche modo Obama cerca un po' di far ricollocare gli Stati Uniti in una regione dove in realtà difende puntualmente soltanto una parte degli interessi che la riguardano da vicino, cioè la penisola arabica, dove c'è il petrolio, dove ci sono le basi in Bahrain della Quinta Flotta. Quindi in qualche modo rimane comunque non una grande visione politica, come è stato detto. A me non mi sembra che Obama abbia enunciato grandi visioni politiche, mi sembra che abbia enunciato dei fatti incontestabili, e bisogna vedere gli Stati Uniti che direzione prenderanno. Io non penso che prenderanno la guida di questi cambiamenti, perché gli Stati Uniti hanno problemi interni molto grossi, e questo discorso di Obama mi sembrava più forse diretto al pubblico americano, per far capire che insomma gli Stati Uniti ancora sono una potenza importante, che comunque sono dentro i cambiamenti medio orientali, ma in realtà nei fatti, sia dal punto di vista delle azioni politiche che da quelle economiche, mi pare che non ci siano in realtà delle grandi novità. Si continua a parlare di piani Marshall, che poi sappiamo benissimo che non vengono mai realizzati, e questo in qualche modo dovrebbe farci pensare, soprattutto a noi europei, perché siamo noi europei che in realtà dovremmo prenderci, come dire, la responsabilità di quello che accade nella sponda sud del Mediterraneo, sia sotto il profilo politico, il profilo economico, che il profilo sociale, legato per esempio a grandi fenomeni come l'immigrazione. Gli eventi, infatti, dice Obama nella sua lunga introduzione, nella spiegazione, nell'elencazione, proprio come diceva Alberto Negri, dei fatti. Lui cita nell'inizio nell'apertura del suo discorso il giovane sfortunato eroe della protesta tunisina che si dà fuoco appunto di fronte ai palazzi del potere in Tunisia, questo a dicembre del 2010, innesca la protesta. Ma dicevo, inizia spiegando agli americani che poi, sebbene questi fatti avvengano lontanissimi dalle nostre sponde, dice testualmente il presidente, ci devono riguardare, ci coinvolgono, ci devono coinvolgere non solamente per gli interessi economici. Quindi, come dire, condivido pienamente la spiegazione di Alberto su questa esigenza di sensibilizzare un pubblico americano, non dimentichiamolo, che è preso da altre questioni molto più interne, molto più che lo toccano molto più direttamente, a cominciare naturalmente dal lavoro. Ma d'altra parte, e qui ritorniamo alla Libia, ecco, per la Libia una citazione, se vogliamo, c'è un po' la sensazione che anche da questo discorso che l'America ci sia a patto di non esserci troppo, insomma, c'è sempre un po' questo gioco delle parti tra Stati Uniti ed Europa, andate avanti voi, sì, noi attacchiamo, ma voi ne siete i protagonisti. Gli americani lo hanno anche detto, Hillary Clinton l'ha detto esplicitamente, questo attacco è iniziato dall'Europa. Sì, gli americani non hanno nessuna intenzione di farsi coinvolgere sulla sponda nordafricana dal punto di vista militare e forse neppure troppo dal punto di vista politico. L'unico forse punto che gli interessa è quello dell'Egitto, gli 80 milioni di egiziani che comunque stanno cambiando la faccia di un paese che fino all'altro giorno dipendeva anche molto dai rapporti con gli Stati Uniti e con Israele e che sembra che stia cambiando questi rapporti anche con conseguenze geopolitiche e strategiche non di poco conto. Quindi su questo loro, gli americani, hanno un'attenzione particolare in quel senso. Ma sulla Libia, per esempio, io non ho sentito da Obama grandi riferimenti a quelli che sono i veri problemi economici e sociali di questa sponda sud. Il crollo del regime di Gheddafi, comunque il crollo economico del regime di Gheddafi, ha messo sul lastrico 2,5 milioni di lavoratori stranieri, in gran parte egiziani e tunisini, ce ne sono ancora 700-800 mila che vagano in questa Libia disperati e forse anche strumentalizzati dallo stesso regime che cerca di buttarli sui barconi e usarli come strumenti di destabilizzazione. Insomma, ci sono problemi enormi che non mi sembra che gli Stati Uniti abbiano capito tanto, e neppure il Presidente degli Stati Uniti, perché in realtà fa delle grandi enunciazioni, se vogliamo, retoriche, condivisibili, però poi nei fatti non mi sembra che concretamente proponga nulla, a parte la questione di un fondo per gli imprenditori con la supervisione del fondo monetario internazionale. Insomma, poca cosa. In conclusione, con Alberto Negri abbiamo parlato naturalmente degli Stati Uniti rispetto alla Libia, ma vorrei chiederti i paesi confinanti, perché la Libia è anche un grande paese, una grande estensione, e la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto naturalmente sull'altro fronte, il Chad a sud, ecco, quali interessi possono avere e possono in qualche modo condizionare questa spartizione della Libia quantomeno in due grandi nazioni separate? Certamente, questo è forse l'aspetto più importante che mi sembra quello da sottolineare. In fondo Gheddafi, dopo la ricostituzione dei suoi rapporti con gli Stati Uniti e l'Europa, era diventato una sorta di poliziotto della regione, no? Controllando non solo la Libia, ma anche una vasta fascia di paesi dell'area subsahariana, come Chad, in quella grande area dove i confini sono soltanto praticamente tracciati sulla carta geografica, ma in realtà quasi non esistono. E Gheddafi era colui che praticamente controllava questa area, finanziava regimi, esercitava insomma un controllo militare e politico sulla situazione. Nel momento in cui il regime se ne andrà o crollerà, e già sta accadendo, ebbene questa diventa una fascia fuori controllo, che dovrà, è un vuoto che dovrà essere riempito da qualcuno, forse dall'Algeria, forse da qualche altro paese, ma che pone problemi anche dal punto di vista dell'ordine internazionale, non solo dei flussi migratori, ma anche del terrorismo, delle guerriglie. Questo è un aspetto importante che non si può trascurare. Grazie ad Alberto Negri di essere stato con noi questa sera, di averci aiutato a fare il punto su un paese che, lo ricordo, dopo 2 mesi di operazione militare occidentale, in realtà per molti aspetti rimane rimane un grande enigma, un grande punto di domanda sul futuro e naturalmente sul futuro suo e di una parte della regione ampia che coinvolge. E per ora è dunque tutto con 30 minuti in cronaca, l'appuntamento il prossimo sabato. Vi ricordo soltanto www.radio24.it per sentire e risentire questa e tutte le nostre trasmissioni. Buon fine settimana.